Grazie. Le cinque idee sono cose straordinarie perché in qualche modo tutta la viticoltura italiana e di conseguenza poi anche tutta la gastronomia italiana risentono di questi suoi interventi. Lui ha sempre, come dire, avuto il vezzo di dirsi che lui ha sempre fatto soltanto il notaro della viticoltura italiana e della gastronomia italiana. Nulla di più falso, naturalmente, perché proprio lui notaro non è mai stato. Lui ha imposto una sua visione, ha costretto, ha violentato i viticoltori affinché esercitassero quel diritto che lui sentiva di dare ai viticoltori, di dare il loro nome al vino che producevano, di nominare la terra nella quale veniva prodotto il loro vino. Li ha costretti a uscire allo sbaraglio, a uscire allo scoperto e naturalmente in un ambiente nel quale fino ad allora tutto veniva nascosto, mascherato, non bisognava comparire troppo evidenti perché era l'industria che in qualche modo governava i sistemi economici legati al vino. C'erano i grandi imbottigliatori e loro facevano tutti. Ecco, basta questo piccolo esempio per farci capire che appunto è stato, se davvero notaro fu stato, lo fu davvero in un modo molto molto strano e molto originale. Una delle ultime sue azioni notarili fu una telefonata a un appassionato di vino siciliano, il quale gli disse: caro Salvatore, c'è una denominazione che sta morendo e noi assolutamente non vogliamo che questa denominazione muoia. Tu da domani mattina ti metti a lavorare per salvare questa denominazione. E questo Salvatore, la mattina successiva, iniziò a costruire un'azienda che potesse, come dire, salvaguardare, salvare e ridare valore e ridare smalto a una vecchia denominazione. Ecco, questo è stato il lavoro di Veronelli. Veronelli ha in qualche modo costretto, con l'intelligenza, con la cultura, con la sua capacità di capire e comprendere le esigenze di ciascuno, di muovere quindi i viticoltori per valorizzare i propri beni, valorizzare un patrimonio collettivo. Se appunto in questi anni si sta parlando di viticoltura di qualità, di viticoltura che è l'elemento, come dire, più importante, più positivo nello scambio internazionale, se sarà appunto nella prossima Expo l'Italia si gioca la carta, l'unica carta vincente che ha, che è quella della viticoltura, questo è naturalmente grazie all'azione di Veronelli. All'azione di Veronelli che è stata tutt'altro che un'azione da notare. Ha davvero stimolato, invogliato e a volte proprio preso per il bavero alcune persone per costringerle, per motivarle, per riuscire ad ottenere grandi risultati. Ci è riuscito, è stato amato, è stato naturalmente anche molto osteggiato e combattuto da molti altri giornalisti che vedevano in lui una persona ingombrante, una persona troppo presente, troppo, come dire, interprete di una situazione, che avrebbero preferito gestire in altro modo. Le sue battaglie contro l'intelligenza, come dire, tutta la parte burocratica che ha gestito a lungo la viticoltura italiana sono sempre stati i suoi obiettivi più tremendi. Ne ha dette di tutti i colori contro lui. Gli hanno fatto cause su cause, l'hanno portato in tribunali in ogni parte d'Italia, ma lui non ha mai chinato la testa né la schiena. Ha sempre voluto che la viticoltura fosse gestita da chi la usava. Lui ha voluto che i viticoltori diventassero interpreti della viticoltura italiana, ha voluto che le piccole cantine diventassero l'emblema della viticoltura italiana. Per tutte hanno avuto il suo appoggio incondizionato, i suoi consigli, non ha mai lesinato nessun consiglio a nessuno, non si è fatto mai pregare da nessuno, ma è sempre stato appunto così aperto a tutte queste situazioni. È stato arrestato, è stato condannato per aver appoggiato i contadini piemontesi per li aveva invitati a occupare la stazione di Asti perché gli imbottigliatori condizionavano troppo il mercato delle uve, gli hanno fatto bruciare i libri che lui aveva editato in gioventù con Veronelli editore, ha pregato i vignaioli di essere disobbedienti perché secondo lui era iniquo osservare leggi inique, e quindi li ha invogliati appunto alla rivolta, alla disobbedienza civile, che naturalmente è poi stata raccolta da questi giovani, da questi ragazzi dei centri sociali, all'inizio con il Critical Wine e successivamente con La Terra Trema. La Terra Trema è stata una delle esperienze più significative del dopo Veronelli, perché in qualche modo Veronelli aveva visto in questo movimento, in questi giovani che da tante esperienze diverse si avvicinavano al mondo del vino, e aveva trovato in qualche modo i suoi ricordi, probabilmente qualche suo legame con il suo passato, con i suoi moti in qualche modo, come dire, ribelli della sua gioventù, ma questa ribellione orientata verso la costruzione di qualche cosa di estremamente innovativo, significativo, nuovo e totalmente diverso rispetto ai canoni del passato. Questo è stato Veronelli, e queste sono le cose che mai ci si potrà dimenticare, perché ancora oggi la viticoltura italiana poggia su queste basi, poggia su questi elementi, su questi argomenti. Bene.